Rappresentando il signor Cazzofiga, in qualità del signor Cazzofiga, vorrei dire che io sono l'unico normale. Lo sai che è l'unico normale lui? Eh sì, allora è pericoloso.